Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ci occuperemo dell'appuntamento più atteso, che è il primo appuntamento vero e proprio per il neogoverno Renzi. Mi riferisco a un appuntamento non di carattere istituzionale, ma il primo appuntamento in cui Renzi dovrà dimostrare di poter tradurre dalle parole ai fatti quello che è il suo piano di riforme. È chiaro che sto parlando di mercoledì prossimo, quando il Consiglio dei Ministri dovrà varare in primo luogo il pacchetto riduzione tasse, anche lì la discussione è se sull'IRAP o sull'IRPEF. Ascolteremo alcune delle dichiarazioni di Renzi ieri nel programma di Fabio Fazio, ma anche e soprattutto le reazioni di oggi dei sindacati, quantomeno seccate, diciamo, per una frase, un passaggio dell'intervista del Premier Renzi, quando ha detto i sindacati dovranno farsene una ragione, se si arrabbieranno ce ne faremo una ragione. Per quello che riguarda l'appuntamento di mercoledì ci sono anche altre misure importanti, però l'edilizia scolastica da far uscire dal patto di stabilità interno e quindi da non conteggiare come deficit in senso stretto, ma non solo, c'è anche l'iniziativa chiamata Jobs Act, quindi la riforma del mercato del lavoro. Di questo parleremo. In apertura però ci occuperemo di altri casi, cioè da un lato di quello che è stato il dato anche oggi diffuso da Alma Laurea, e mi riferisco alla fotografia che ogni anno viene scattata sui giovani italiani che si iscrivono a un corso di laurea. Dall'altro però avremo anche un approfondimento sui bancari, perché oggi inizia il congresso del principale sindacato dei bancari, mi riferisco al FABI. Parleremo di produzione industriale, perché c'è una buona notizia oggi sulla produzione industriale, e poi anche di un'operazione importante oggi annunciata, Tambur Investment Partners, e quindi il titolo quotato anche in borsa, che gestisce patrimoni investendo come un fondo di private equity in qualche modo in grandi gruppi spesso quotati in borsa, ha preso il 20% di Italy, l'ha pagato 120 milioni di euro. Italy è la creatura di Oscar Farinetti, che ha inaugurato in tutta Italia, in mezza Italia, adesso inaugurerà anche a Milano il 18, se non ricordo male, marzo, e che ha inaugurato a Tokyo, a New York, un edificio immenso. Ebbene, un'operazione da 120 milioni di euro per comprarsi il 20% di Italy. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Le altre notizie in breve. Allora, la borsa italiana va bene, unica tra le borse europee, più 0,40% negativa di uno 0,1 Parigi, dell'1% Francoforte, dello 0,40 Londra, l'America meno 1%. Perché? Perché vanno bene alcune banche che molto pesano, penso a UniCredit più 3,30%, ma anche il Banco Popolare più 2,20%, Monte dei Paschi più 1,80%, e invece andamento opposto per la Popolare Emilia Romagna, che perde lo 0,70%, e Intesa San Paolo invariata, ma va bene soprattutto A2A più 3,36%, Unipolsai più 2,30%, Autogrill più 2,1%. Ancora andando alle notizie di oggi, le notizie in breve, per quello che riguarda i consumi di elettricità c'è stata una flessione anche nel mese di febbraio, lo ha reso noto Terna, precisando che, depurato dagli effetti della temperatura, ha fatto più caldo del solito a febbraio, il calo del 2% e non del 4%, c'era una temperatura infatti mensile media superiore di quasi 4 gradi e mezzo rispetto al 2019. 13. E nel frattempo ci spostiamo alla vicenda Bitcoin, perché fummo facili profeti nel dire state attenti a questa moda della moneta virtuale rischiosissima, sia per le incursioni degli hacker ma in generale. Beh, insomma, la piattaforma giapponese di scambio di Bitcoin, quella più famosa di tutte, MTGOX, dopo aver fatto richiesta di amministrazione controllata a Tokyo lo scorso 28 febbraio, oggi ha fatto ricorso al Chapter 15, è un capitolo del codice fallimentare americano che serve per facilitare la gestione dei casi di insolvenza. In sostanza è in crack sia a Tokyo che negli Stati Uniti. Pensate che a febbraio era la terza piattaforma al mondo per volume di scambi. Perché è stata messa in ginocchio? Beh, attacchi di hacker, l'avevamo detto, mi dispiace, una moneta virtuale che nasce virtualmente è molto facciamo anche l'esempio di quanto c'era voluto alle banche centrali, quanti decenni se non secoli ci sono voluti alle banche centrali per riuscire a stampare delle monete difficilmente falsificabili, con tutto quello che è l'investimento dietro. Beh, perché il tema della falsificazione della moneta è un tema vecchio come loro. Andate a studiare la storia della moneta. Già nel Medioevo, nel Rinascimento, le monete in argento e in oro venivano grattate per mangiare qualcosa sul peso reale della moneta. Figuriamoci se non si andava a fare una falsificazione o comunque un attacco da parte degli hacker. E infatti questo ha messo in ginocchio la terza piattaforma al mondo per volume di scambi, la prima sui Bitcoin. Ha perso 560 milioni di dollari al cambio attuale, visto che sono andati in fumo 750.000 Bitcoin di proprietà degli investitori e 100.000 di proprietà della stessa MTGOX. Ci spostiamo alla Germania. Il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeneß, ha ammesso di aver evaso il fisco tedesco per 18 milioni e mezzo di euro, quindi più dei 15 milioni sostenuti dall'accusa. Dice: farò tutto il possibile perché questa vicenda sia chiusa, ma insomma, interessante perché è uno scandalo che riguarda il calcio e uno dei principali club calcistici tedeschi. Ancora, sempre dalla Germania, è arrivata la notizia che sono stati collocati le obbligazioni a 6 mesi, i Bund a 6 mesi, in rialzo i tassi assegnati quasi 2 miliardi di euro, ma il tasso è allo 0,14%. Allora, per quello che riguarda la bozza informale di accordo dell'Italia per la programmazione dei fondi dell'Unione Europea 2014-2020, c'è una buona base di lavoro, ci sono dei nodi da sciogliere, ma il commissario dell'Unione Europea, Johannes Hahn, ha detto che non possiamo permetterci di ricominciare da capo, di riscriverla. Sarebbe illogico e assurdo. E poi, oggi, contestualmente all'invio a Roma dell'osservazione della Commissione europea alla bozza presentata dall'Italia per la programmazione dei cofinanziamenti 2014-2020, il commissario, sempre Johannes Hahn, ha detto che scriverà al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio per circoscrivere il campo di utilizzo dei fondi europei per le politiche di coesione, ricordando che la loro destinazione non può essere per misure congiunturali. E quindi non possono essere utilizzati i fondi di coesione, si chiamano così perché puntano a portare dentro i paesi dove c'è il potere d'acquisto più basso, la coesione all'interno dell'Unione Europea, e quindi sono quelli che poi vanno copartecipati anche dallo Stato italiano. Ma dicevo, questi fondi non possono essere utilizzati per la copertura del cuneo fiscale e per altre misure congiunturali, cioè legate alla manovra anno per anno. Nel frattempo il nostro spread resta stabilmente sotto i 180 punti, a 178 punti. La Banca d'Italia fa sapere che anche a gennaio sono calati i prestiti alle imprese, ma sono calati un po' meno rispetto a dicembre. E a dicembre calarono del 3,7%, a gennaio del 3,5%. Male però il prestito alle famiglie, meno 1,3%. Questo nonostante la raccolta bancaria abbia fatto segnare a gennaio una crescita del 2,7% contro più 2,3% di dicembre. dicevamo che comunque di banche oggi parliamo, anche perché il maggior sindacato dei bancari italiani apre il suo congresso per soprattutto discutere i temi di maggiore attualità, oltre che rinnovare le cariche. Ne ha parlato la nostra Deborah Rosciani con il segretario del FABI, Lando Sileoni, che tra l'altro ha anche spiegato quali saranno i temi in oggetto dopo è il primo congresso del sindacato dei bancari dopo la disdetta contrattuale decisa dall'ABI lo scorso autunno. Da questo congresso partiranno molto probabilmente le linee programmatiche della nostra nuova piattaforma contrattuale che presenteremo ai lavoratori entro il mese di aprile. Vogliamo recuperare l'inflazione pregressa reale d'attesa, vogliamo blindare le esternalizzazioni perché sono diventate un po' l'elemento debole della nostra contrattazione, vogliamo assolutamente ridisegnare e se possibile condividere con la controparte un nuovo modello di banca che ottenga principalmente tre obiettivi. Il primo è quello di far ritornare la banca al modello sociale che aveva un tempo, il secondo quello di fare aumentare i ricavi alle banche, il terzo è quello di mantenere, magari nei prossimi 2 o 3 anni, aumentare gli attuali livelli occupazionali. All'atere tutto il fermento che il sistema bancario sta vivendo. Cominciamo da questo. Si sta andando in tutta probabilità, almeno a giudicare da quello che indica la borsa, verso una stagione di consolidamento del settore bancario italiano. Voi ci credete? Lo auspicate? Lo temete? No, noi siamo convinti che le banche debbano guardare in faccia la realtà, quindi gli aumenti di capitale vanno in questa direzione, però i banchieri e le grandi famiglie, no, che da dietro in penombra gestiscono il settore bancario non possono pretendere che saranno poi i lavoratori bancari a pagare le loro e le nostre in qualche tra virgolette aumenti di capitali. Vogliamo porre fine alla strage di posti di lavoro di questi ultimi 15 anni. Dal 2000 al 2014 abbiamo perso 48.000 posti di lavoro e dal 2014 al 2020 ne perderemo altri 19.800 e quindi sono quasi 68.000 posti di lavoro in meno. E noi dobbiamo voltare pagina. Noi siamo per una gestione del cambiamento, no? Perché siamo un sindacato più rappresentativo del settore, non siamo un sindacato antagonista, abbiamo un rispetto per le banche, ma vogliamo che le banche siano gestite bene. Quindi è indispensabile che sui lavoratori non ricada la cattiva gestione delle banche che c'è stata fino ad oggi, le sofferenze bancarie. Anche su questo argomento la ipotizzata bad bank noi non la vediamo molto bene, perché se gestita male, se diventa una discarica delle sofferenze bancarie e basta, potrebbe fare una strage di imprese. Sileoni, proprio a proposito di banche gestite male, come state giudicando le vicende dell'ultima settimana di Banca Monte dei Paschi, dove non si capisce chi sta comprando cosa? Lì c'è un braccio di ferro in corso fra chi ha salvato la banca, perché di questo stiamo parlando. Noi abbiamo due banchieri, no? Come Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, che al di là della diversa loro fanno il loro lavoro e noi facciamo nostro, gli va riconosciuto il fatto che hanno salvato la banca. Poi sull'argomento esternalizzazione del lavoratore è chiaro che si apre tutto un altro capitolo, che in parte possiamo condividere, in parte no. Però lì il problema è un altro: la fondazione, noi rispettiamo il lavoro delle fondazioni, perché le fondazioni in momenti difficili hanno sempre, come dire, messo le mani in tasca e hanno fatto aumenti di capitali estremamente consistenti, ma le fondazioni devono capire che prima del futuro o del presente di qualche politicante locale viene il destino del futuro e il presente di 28.000 lavoratori bancari e delle loro famiglie. Poi staremo a vedere che cosa capiterà. Giustamente Deborah Rosciani ha chiesto del consolidamento, che lo spiego a tutti, non vuol dire che consolidi nel senso che diventi più forte, ma consolidamento bancario in linguaggio tecnico vuol dire un altro processo di fusione tra banche, quindi un settore che va a consolidarsi perché crea altre fusioni. Questo è un giorno in cui la produzione industriale, come dicevo, segna un più 1% a gennaio, ed è un più 1% che non si vedeva dall'agosto del 2011, su base annua più 1,4%, però Confindustria, dopo il rimbalzo di gennaio, stima che a febbraio vi sarà seppur un leggero segno meno 0,2%. E poi l'altra grande notizia, il mercato immobiliare. Attenzione, non stiamo parlando dei prezzi, stiamo parlando del numero di compravendite. E quando quindi diciamo che il mercato immobiliare residenziale è tornato sotto i livelli dell'85, del 1985, con 403.000 compravendite nel 2013, che vuol dire il 9% in meno rispetto al 2012, che già le aveva viste in calo, non sono i prezzi, sono il numero di case vendute e acquistate. È chiaro che più cala il mercato delle compravendite, più i prezzi quantomeno sono vischiosi, cioè vuol dire che oltre che esserci pochi soldi c'è poco incrocio tra domanda e offerta. Il proprietario vuole vendere una certa cifra, l'acquirente vuole comprare un'altra, e il basso numero delle compravendite dimostra che il mercato è ancora, non dico ibernato, ma bello freddo. Ancora il valore invece delle abitazioni scambiate, però anche qui non è il valore al metro quadro, è il valore complessivo delle compravendite in un anno, è comunque calato dell'11% quasi, che vuol dire che comunque c'è stato un calo anche nei prezzi dei singoli immobili, anche se non siamo in grado di scorporarlo. È calato infatti a 66,8 miliardi di euro l'ammontare complessivo delle compravendite l'anno scorso, quasi 11% in meno. Male soprattutto gli uffici, quindi il settore terziario, per quello il residenziale però ha fatto un meno 9, terziario meno 11, il commerciale meno 7 e il produttivo meno 7,7%. Questo nell'anno in cui anche i mutui sono calati, non solo come tassi ma come numero, meno 7,7%, erogati 17 miliardi e mezzo di mutui per un totale di 10 miliardi e mezzo di 17 miliardi e mezzo di euro, 10% in meno. E gli interessi praticati e le rate sono risultate comunque in calo. Il tasso di interesse medio è sceso al 3,94%, la rata media è calata a 680 euro. Era di 720 euro nel 2012. Ripeto, sono tutti segnali di un mercato che ancora non è ripartito e anzi ha avuto nel 2013 un'ulteriore battuta d'arresto di raffreddamento. Poi, per quello che riguarda invece un altro mercato, è quello dei nostri titoli di studio, segnalo oggi il rapporto di Alma Laurea, che è il 16° rapporto. Alma Laurea è il consorzio che riunisce 64 atenei italiani. Ebbene, solo il 30% dei giovani si iscrive a un corso di laurea tra i 20 e i 34 anni, solo il 21% ha un titolo. Tutto questo è ben al di sotto della media europea. Tra l'altro emerge anche che la crisi economica si è abbattuta violentemente sull'occupazione giovanile e sulla retribuzione dei giovani laureati. Il tasso di disoccupazione a un anno dalla laurea è cresciuto del 12% in 4 anni. Tra l'altro del 15% per le lauree di primo livello e magistrale ciclo unico. Praticamente tra i neolaureati disoccupati sono il 26% di chi ha terminato la laurea breve, quella triennale, e il 23% di quelli che hanno fatto la laurea specialistica. Sentiamo il direttore di Alma Laurea, Andrea Cammelli, intervistato dalla nostra Anna Rita D'Ambrosio, che chiarisce comunque che insomma studiare dà sempre e comunque delle chance in più. È vero che la condizione occupazionale dei laureati naturalmente diminuisce, nel senso che i laureati anche dopo 5 anni, l'anno scorso si trattava soltanto del 6%, quest'anno è diventato l'8%, e questo è vero, però devo dire che resta una situazione sostanzialmente positiva per quanti dico si laureano, perché la differenza tra chi si laurea e chi naturalmente la laurea dico non ce l'ha o si ferma agli studi secondari superiori oppure si ferma alla scuola media, devo dire francamente che è molto più elevata. Professor Cammelli, però meno giovani si iscrivono ad un corso di laurea. È vero, non c'è nessuna politica per il diritto allo studio. Quindi vuol dire che le famiglie che sono più svantaggiate dal punto di vista economico non possono in qualche modo mandare i propri figli a studiare perché manca una politica, una seria politica del diritto allo studio. Una buona notizia però è arrivata oggi dal programma di Giovanni Minoli, Mix 24, era ospite il numero uno del gruppo Salini in Pregilo, Pietro Salini. il quale ha detto, insomma, noi abbiamo un programma importante di assunzioni nei prossimi 4 anni. Ma noi abbiamo un programma di assumere 15.000 persone nel piano industriale, quindi nei prossimi 4 anni. 15.000 persone? Sì. Vogliamo fare una bella crescita, l'azienda tende a un raddoppio della sua dimensione in termini strutturali e quindi necessita di un forte programma di assunzione. Nei prossimi 4 anni? Sì, stiamo cercando quindi adesso molti giovani, ovviamente non solo italiani ma una buona parte italiani, e stiamo facendo adesso una serie di programmi insieme alle università. Ma per che tipo di giovani cercate? Ingegneri? Cerchiamo principalmente giovani ingegneri, giovani laureati in economia, geometri. Adesso occupiamoci dell'Expo, perché oggi è stato firmato un importante accordo, anzi protocollo, per l'agroalimentare Italia. C'era anche il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, il commissario unico per l'Expo Giuseppe Sala e il commissario generale del padiglione Italia Diana Bracco. Il protocollo è il protocollo d'intesa per la partecipazione dell'agroalimentare italiano all'Expo 2015, quanto mai importante perché l'Expo 2015 è dedicato all'alimentazione sostenibile, no? Per cui tutto ciò che è il futuro sostenibile dal punto di vista alimentare del nostro pianeta. Ed è importante perché noi, che abbiamo nell'agroalimentare uno dei punti di forza riconosciuti a livello mondiale, non lo sappiamo valorizzare abbastanza. Ci mancano le grandi catene di distribuzione, ci mancano anche qualche grande industria in più nell'agroalimentare, però diciamo, resta uno dei punti di forza del nostro Made in Italy. Tra l'altro su questo l'intero settore si gioca una partita importante, perché la vetrina dell'Expo è una vetrina unica. Nel padiglione italiano, ha detto Sala, vi sarà uno spazio per tutti i prodotti di eccellenza dell'agroalimentare, a partire dal vino, ma anche per tutte le altre filiere dell'agroalimentare italiana. Ancora Sala ha chiarito che fino adesso hanno aderito 144 paesi e che si aspetta l'adesione americana, magari in coincidenza della visita che il presidente Barack Obama farà il 27 marzo, incontrando anche il premier Matteo Renzi. In questo momento il punto è portarci avanti con i lavori. Mancano oggi 417 giorni. Quello che vediamo è che dal punto di vista della partecipazione dei paesi la risposta è straordinaria. I cinesi stanno dicendo veniamo con 3 padiglioni, in realtà uno sarà il padiglione paese e altri 2 saranno di aziende, in un caso un gruppo di aziende nel settore dell'agrofood, quindi come quello che si proporrà oggi per l'Italia. Ad oggi siamo a 144, ecco, è chiaro che, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, è possibile che di questi qualcuno se ne perda. In questo momento potete immaginare le problematiche che abbiamo ad esempio con l'India, no? Non siamo certi della partecipazione, ma spero che altri ne arriveranno. In particolare il 27 di marzo è atteso qui a Roma il presidente Obama, speriamo che arrivi con la firma del contratto di partecipazione agli Stati Uniti. Che l'Expo 2015, in cui Radio 24 sarà particolarmente presente, abbiamo già iniziato dei viaggi di avvicinamento all'Expo sulle varie tematiche, poi contiamo, diciamo, di essere anche fisicamente presenti lì, di trasmettere buona parte della radio dall'Expo nel 2015, perché no? Ma dicevo che l'Expo rappresenti una piattaforma che potrebbe permettere all'intero sistema agroalimentare di fare un salto di qualità verso, senza perdere la qualità del prodotto, ma con un approccio ancora più manageriale sulla distribuzione e la penetrazione sui mercati. Ne è convinto, dicevo, di questo anche il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, il quale poi però ha ricordato come in questo paese vi sia un vero e proprio problema del carrello della spesa. Dobbiamo prestare massima attenzione ai ceti medio-bassi, sembra quasi, diciamo così, un ennesimo anticipo di quello che deciderà il governo mercoledì. Sentiamo Martina. Abbiamo presentato per tempo un pacchetto di proposte, soprattutto con l'idea di sviluppare alcune azioni che aiutino l'occupazione sotto i 35 e sopra i 55. Proviamo a lavorare su queste due fasce fondamentali, consapevoli che abbiamo un tema di occupazione giovanile e abbiamo anche un tema di nuova occupazione sopra i 55 anni. Stiamo perfezionando il lavoro con il Ministero del Lavoro e vedrete che ci saranno degli elementi. Per me è importantissimo adesso recuperare il concetto che per la prima volta forse possiamo fare un intervento robusto a sostegno delle famiglie e delle imprese. In generale condivido l'approccio del ministro Padoan quando dice lavorare con un budget definito ad un'operazione robusta su un fronte. Personalmente credo che abbiamo un tema vero di crisi della domanda e quindi crisi del consumo e dobbiamo prestare moltissima attenzione ai ceti medio-bassi perché c'è un problema davvero di carrello della spesa. Io per la mia sensibilità parto da qui perché mi sembra che questo sia uno dei nodi fondamentali e poi penso che con i provvedimenti sul lavoro, con i provvedimenti per snellire i pagamenti della PA, noi possiamo fare un bel lavoro di semplificazione anche dal lato delle imprese. Alle 17:40 minuti riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Dicevamo della borsa, adesso più 0,60% Milano in netta controtendenza rispetto alle altre borse europee, visto che Francoforte ha perso lo 0,90%, Londra lo 0,40%, Parigi ha chiuso invariata, l'America perde mezzo punto percentuale. E parleremo, c'è un ascoltatore che mi chiede perché non invita Tamburi per parlare di borsa. Guardi, lo invitiamo, ce l'avremo ospite fra pochi minuti, ma per parlare del 20% di Italy che si è comprato, dopodiché gli chiederemo anche anche della borsa. Vorrei però parlare di borsa con il dottor Roberto Brasca. Buonasera. Buonasera a tutti. Della società dunque A2A, scusi gioco di parole, più 3,41%, c'è venerdì il consiglio di amministrazione, è per questo che il titolo si muove o c'è sfuggito qualcosa? Mi pare che ci sia stata anche una valutazione dei buoni risultati idroelettrici in generale della stagione, quindi già c'è anche una questione diciamo più operativa. Poi è un titolo che è rimasto parecchio indietro, in questo momento il mercato sta cercando di andare a trovare dei titoli che non hanno sovraperformato e che hanno delle valutazioni ancora basse rispetto a una media storica. Quindi può darsi poi che conti anche quello che succederà venerdì. Ecco, Unicredit più 3%, Unipolsai più 2,90%, Banco Popolare più 2,16%, Pop Milano più 1,30%, sono i motivi per cui l'indice di Milano sostanzialmente è messo meglio rispetto alle altre borse europee, perché da noi le banche pesano parecchio. Devo dire che la Popolare Emilia Romagna perde invece mezzo punto, UbiBank perde lo 0,30, Intesa San Paolo ha guadagnato un po' meno, lo 0,35%, ma insomma come mai oggi si sono risvegliati di nuovo i bancari? Sempre forse fa parte di un riposizionamento dei portafogli. L'unica interpretazione che può fare in generale tutti i finanziari italiani avevano molto sofferto nella fase difficile del debito pubblico italiano nel 2011 e man mano che il debito pubblico italiano recupera sullo spread e scende il rendimento del decennale, quindi aumenta il prezzo dell'obbligazione, ovviamente tutti i titoli che hanno queste obbligazioni in portafoglio ne beneficiano. Poi c'è anche da dire che l'Italia è un po' indietro nel ciclo bancario, è stata indietro nel ciclo di riconoscimento dei crediti problematici e oggi il mercato anticipa che l'Italia possa avere la stessa evoluzione che hanno avuto altre banche europee, con una diminuzione progressiva delle sofferenze e quindi man mano un miglioramento dei risultati a venire. Per quello che riguarda la giornata, il titolo più i settori più interessanti per lei? Ma senz'altro, come diceva lei, il settore finanziario è stato una conferma importante. Oggi alcuni titoli hanno risentito di quanto comunicato in Cina durante il weekend circa dati dell'esportazione meno importanti, quindi c'è stato un rallentamento in tutta Europa di tutto quanto è correlato alle materie prime. Infatti vedete che i titoli legati alle materie prime sono deboli, c'è un incalo. I conti della Rizzoli, Corriere della Sera: il consiglio di amministrazione è durato 5 ore, non vi è stata alcuna dimissione dentro il CDA del Corriere della Sera, del Rizzoli Corriere della Sera. Le perdite del 2013 ammontano a 218 milioni, i ricavi a 1.314 milioni, per quello che a 1.314 milioni, scusatemi, per quello che riguarda i conti va detto che le perdite sono dimezzate rispetto ai 507 milioni di euro di perdita del 2012. E i ricavi sono invece però calati rispetto al 1.5 miliardi del 2012, si è a 1.3 miliardi. Il Rizzoli Corriere della Sera prevede per il 2014 un risultato netto ancora negativo, ma in miglioramento rispetto al 2013, e conta di raggiungere gli obiettivi di taglio dei costi con un anno di anticipo, quindi non più nel 2015 ma nel 2013. Reazione di borsa: oggi il titolo ha guadagnato il 4,26%. Ancora segnalo Telecom Italia più 1,40%, World Duty Free più 1,30%, Exor più 1,20%. Fronte opposto: Hughes meno 2,80%, Pirelli meno 1,70%, Buzzi Unice meno 1,60%, CNH Industrial meno 1,30%, come Mediaset lo 0,90%, lo perde Finmeccanica e Tenaris. Chiudiamo sul Monte dei Paschi, perché il titolo ha guadagnato l'1,13%, però oggi la famiglia Leotti non ha voluto commentare la notizia della cessione praticamente del 3% del capitale del Monte dei Paschi, per cui sarebbe scesa all'1%. Io non ho capito se questo rientri nel passaggio di quota a cui abbiamo assistito la settimana scorsa, 12,5% del capitale. Un suo commento? È sempre difficile, un 1% di variazione su questi livelli del Monte dei Paschi è una sostanziale stabilità. È difficile capire sulla singola giornata, su un titolo su cui c'è aperto ancora una posizione, ci sono ancora aperte delle posizioni corte a livello internazionale e su cui c'è così tanta incertezza su una serie di fronti, che sia l'effettiva riuscita del piano di dismissione di parte della partecipazione della fondazione, il prezzo a cui questo avverrà, chi entrerà nel portafoglio e i tempi e i modi dell'aumento di capitale. L'unica cosa su cui mi sento di dire è che ovviamente il Monte dei Paschi, rispetto alla sua potenzialità di grande banca italiana, è sottovalutata dal punto di vista dell'esercizio del business del credito. Ovviamente in questo momento c'è una ridefinizione del capitale su livelli molto bassi dovuti al pregresso, ma questo riaggiustamento avviene in una situazione di diciamo tra virgolette umore migliore per il mercato italiano, e quindi forse la cosa è più favorevole di quanti scontassero all'inizio dell'anno. C'è chi in questo periodo, in questi mesi, in questi anni, non ha smesso di comprare. Voi direte: beato lui, perché c'ha i soldi. Sì, ha i soldi perché gestisce i patrimoni e utilizza, diciamo, un approccio che potremmo definire da private equity evoluto, cioè sta dentro le aziende e ha comprato. È socio, è il primo azionista di Prysmian, l'ex Pirelli Cavi, ma è anche azionista importante di un titolo come Zegnago, che fa vetri industriali, vetri speciali, e poi il famoso operazione su Moncler, ma anche Amplifon, Datalogic, Roche, Beauvoir. E adesso si è preso pure il 20% di Italy. Mi riferisco a Tamburi Investment Partners, che è anche quotata in borsa. Giovanni Tamburi, presidente, buonasera. Buonasera. Allora, beato lei che ha i soldi, come dicono in questo periodo. Tamburi, poi arriviamo alle previsioni di borsa, ma mi dica una cosa. Lei ha sempre comprato di solito società industriali, cioè, che producono. Moncler produce, Datalogic, Amplifon, citavo Zignago, citavo anche Prysmian. Adesso, comprando il 20% di Italy, pagando a Farinetti 120 milioni di euro, lei va a comprare il retail, cioè la distribuzione, la parte finale della catena, quello che deve vendere sugli scaffali, per dirla tutta, perché Italy non produce in proprio. Ecco, come mai si è spostato sulla parte consumi nel periodo in cui registriamo il calo più forte dei consumi anche alimentari da quando esistono le serie storiche? Ma innanzitutto noi abbiamo sempre investito in retail e il più grande affare della storia di TIP è stato Printemps, che abbiamo venduto l'estate scorsa all'Emiro del Qatar, che è la più grande catena di department store francesi. Abbiamo una quota importante in Amplifon, che è il più grande retailer al mondo di apparecchi per l'udito, e siamo i primi azionisti di Roche Bobois, che è il primo retailer al mondo di mobili e di oggetti di arredamento di alta gamma. Come sta un po' dicendo Barisone, non dire cavolate. Vabbè, no. Ho capito, vabbè, avete sempre comprato retail, però... al di là di questa, la domanda resta, cioè voi avete comprato in questo caso retail di un settore come appunto la distribuzione, per carità Italy ha prodotti selezionati sul territorio da Slow Food e quant'altro, ne abbiamo parlato mille volte con Oscar Farinetti, però obiettivamente lavoro sui consumi e allora è interessante capire come mai comprate il 20% pagandolo 120 milioni di euro di qualcosa, perché immagino riteniate che le prospettive sui consumi saranno in miglioramento, questo mi interessava nonostante le cifre che noi pubblichiamo. Allora, no, ma la domanda è giusta e ci stavo arrivando. Il tema è questo: i consumi scendono per alcune categorie e in alcuni paesi. Non è che a livello mondiale, per un gruppo come Italy, che è dal Giappone agli Stati Uniti, dalla Russia all'Italia e presto aprirà anche in Brasile, un problema. Anzi, il più grande successo che Farinetti ha avuto in questi anni è stato proprio gli Stati Uniti, dove, per darle un'idea, il negozio di Italy ha più visitatori all'anno dell'Empire State Building, per cui, e continua a crescere. Il negozio di Chicago, aperto in novembre, sta andando benissimo e potrebbe addirittura battere le vendite che si fanno a New York. In Italia le cose vanno bene, sia l'Italy di Torino, sia l'Italy di Genova, sia l'Italy di Roma. Settimana prossima si apre lo Smeraldo a Milano e ci sono già prenotazioni nei vari ristoranti fino, credo, a quest'estate, per cui c'è un interesse molto molto forte, e pertanto credo che i retail, i consumi, se indirizzati nel segmento giusto, possano dare, o perlomeno spero che diano, agli investitori buone soddisfazioni. Ecco, chiede giustamente un ascoltatore, poi arriveremo, Tamburi, nella seconda ora alla sua visione della borsa e anche, se vuole darmelo, a quello che si aspetta che faccia il neo premier Renzi, visto che lei ha comprato il 20% di una società di un grande amico di Renzi, perché Oscar Farinetti è da sempre uno dei più grandi supporter di Renzi, non che con questo voglio dire che lei sia amico di Renzi, però fa l'imprenditore, investe in titoli industriali, per cui non investe in fondi speculativi o a leva, investe in società che producono, con dipendenti che producono, e vorrei capire che cosa si aspetta, diciamo, come shock per il paese. Però mi dia un'ultima risposta sull'operazione di oggi. Chiedo a un ascoltatore, ma voi quali competenze potreste portare oltre al 20%? Cioè, è un investimento solo di liquidità o avete intenzione anche di decidere? Allora, noi, come sempre, noi non siamo un investitore passivo, non siamo mai stato. Siamo un investitore di accompagnamento alla borsa, e per cui, come abbiamo fatto in varie società, siamo affiancamento per il riassetto societario, per la preparazione al mercato, per il reporting che dovrà essere organizzato per l'andata in borsa, e così come abbiamo portato in borsa Datalogic, Interpump, da tantissime altre società, la D'Amico e molte altre, pensiamo di poter fare questo ruolo, e credo che Farinetti, una delle ragioni per cui ha scelto noi, è proprio il fatto che riusciamo a preparare bene le società per la borsa. Non voglio prendermi nessun merito del caso Moncler, ma insomma anche lì c'eravamo, e c'eravamo da ben prima della borsa, non è che siamo andati all'ultimo momento, ecco. Per cui crediamo di poter apportare quelle competenze lì. alle 18:09 riprende Focus Economia. Parleremo anche del conto alla rovescia per mercoledì, quando il governo presenterà le prime misure effettive. Quindi saremo lì a misurare senza nessuna pregiudizio né preconcetto, ma senza nessun favore di forma o di sorta, quelle che sono le iniziative del neogoverno Renzi. Però prima vorrei concludere l'intervista con Giovanni Tamburi, che ricordo presidente e amministratore delegato della Tamburi Investment Partners, oggi ha acquistato il 20% di Italy pagandolo 120 milioni di euro. Italy è quel colosso ormai della distribuzione alimentare di qualità, visto che ha sedi a Tokyo, a Chicago, a New York, aprirà in Brasile, oltre che in diverse città italiane. Tamburi, spostandoci sulla borsa, visto che lei, come ricordavo, ha condotto anche l'operazione Moncler in borsa, comprando una quota di Moncler, il 3%, ma anche Datalogica, Amplifon, ed è socio di importante, primo azionista di Prismian, primo azionista unico di Prismian e di altri settori. Lei continua a essere ottimista sulla borsa italiana? Assolutamente sì. Ma mi può dire qualcosa in più? O... Certo, no, assolutamente. Io sono convinto che il mercato italiano sia tra i mercati più sottovalutati dell'Occidente finanziario, chiamiamolo così. E siccome c'è questo grandissimo afflusso dall'Asia e dagli Stati Uniti verso l'Europa, e in particolare verso l'Europa che era considerata periferica fino a qualche mese fa, in Italia stanno arrivando afflussi di denaro molto importanti, fondi che in passato non avevano mai guardato il paese Italia, stanno guardando l'Italia, le valutazioni delle aziende sono ancora più che ragionevoli rispetto a criteri americani e asiatici, e per cui salvo qualche alto e basso che c'era sicuramente nel corso del 2014, ma io ho l'impressione che la borsa sia ancora molto promettente. Ma secondo lei è promettente perché i capitali, i flussi di capitale a cui lei faceva riferimento ci sono, ma sono ancora alla finestra? Voglio dire, lo spread è sicuramente a livelli quasi ottimali, 178 punti, però la situazione politica e quello che ha intenzione di fare il neogoverno sul fronte misure per far ripartire l'economia, ma anche rapporti sui conti pubblici, quindi tenuta dei conti pubblici, non sono ancora chiare. Secondo lei c'è molta attesa, per cui se la situazione si dovesse sbloccare vi sarebbe un'immediata reazione dei capitali? Secondo me no, i capitali stanno dimostrando da alcuni mesi a questa parte che si chiami Letta, si chiami Renzi o si chiami Monti, che in fondo ha iniziato questo percorso virtuoso di attenzione al mercato italiano, i mercati finanziari internazionali guardano l'Italia a prescindere, anzi spesso ci raccontano e ci dicono sbagliate voi a parlare troppo di queste cose qui, perché in un mondo che ha salvato Cipro, ha salvato la Grecia, cosa volete, che la manderemo a piccola Italia? Per cui state tranquilli, di aziende buone ne avete a centinaia e i casi che si vedono ogni giorno lo confermano, e per cui io credo che Renzi possa fare, debba fare delle cose molto importanti e molto positive, ma a prescindere da questo le borse e i mercati finanziari italiano, ma anche francese e spagnolo, andranno bene, continueranno ad andare bene, veramente a prescindere dalla politica. Mi dica ancora un paio di cose. La prima me la chiedono gli ascoltatori: lei sta assumendo in questo periodo? Sì. Beh, no, perché abbiamo avuto oggi ospite di Giovanni Minoli, Pietro Salini, che ha detto questa mattina Mix 24 che avrebbe assunto 15.000 persone nei prossimi 4 anni come gruppo Salini in pregiro. Lei immagino non arrivi a tanto, ma qualche assunzione l'ha fatta, no? Per capire. Assolutamente l'ho fatta. Il gruppo ha allargato le nostre partecipazioni a più di 40.000 dipendenti. Con tutte le stanze insieme, e sono 40.000 dipendenti destinati ad aumentare, e non solo sono destinati ad aumentare in assoluto, ma anche al netto di dismissioni, di stabilimenti, di chiusure che ogni gruppo internazionale diversificato è normale che faccia. E per cui l'economia dinamica che funziona, che va bene, assume e procede. In che settori investirebbe, o titoli se vuol dire, ma più i settori mi interessano in questo momento? Altra domanda che arriva dagli ascoltatori al 349-238-6666. Ma allora, sicuramente nei settori della meccanica e dell'elettronica, dove continuiamo ad avere delle buone aziende che vanno bene e che non sono valutate, come dicevo prima, ai livelli di alcuni mercati internazionali. Spesso in questa trasmissione è fatta la domanda su Fiat, titolo sul quale varie volte ho detto che sarebbe stata una delle sorprese positive, non so dall'ultima trasmissione quanto sia aumentata, ma probabilmente del 30-40%. Fiat, per esempio, secondo me è ancora una società nella quale conviene investire, perché è ancora valutata, per quanto sia cresciuto il prezzo, a criteri, diciamo, italiani e europei, pur essendo un'azienda americana. Onestamente starei molto attento ancora a real estate, delle banche. Quindi l'immobiliare. Poco e non, quindi lei starebbe lontano dall'immobiliare, le banche non le prende in considerazione, titoli industriali nella meccanica industriale, nella meccanica. Meccanica industriale, manufacturing, aziende che esportano, aziende possibilmente leader dei loro mercati, hanno ancora un potenziale molto grosso, perché sono quelle aziende che non sono andate male quando i mercati sono andati male. Oggi che i mercati comunque si stanno riprendendo, perché insomma, il PIL mondiale nel 2014 era sensibilmente più alto del PIL mondiale del 2013, queste aziende diversificate territorialmente non potranno che beneficiarne. Un'ultima domanda, visto che è il prossimo tema. Lei come imprenditore, perché ripeto investe ma in imprese e quindi poi di fatto fa anche l'imprenditore, perché voi non siete passivi, lo ricordava anche lei, quando comprate le quote di uno dei gruppi che citavo poi volete anche insomma accompagnarli in borsa o comunque mettere... dire la vostra, che mosse si attende dal Premier Renzi? Ma la mossa che sicuramente farà è quella sul cuneo fiscale, cioè il fatto che un dipendente della mia società in Germania costi lo stesso all'azienda ma incassi molto di più in Germania e molto di meno in Italia è qualcosa che non è giusto, per cui certamente che sia mercoledì o che sia comunque nei prossimi giorni metterà mano al cuneo fiscale. Spero che metta mano alle privatizzazioni, perché uno dei grandi scandali italiani è avere tutte queste ex municipalizzate, tutte queste aziende dei servizi pubblici locali possedute da regioni, province, comuni, che ciucciano soldi dalla cassa nazionale, non danno voglia di tassare i cittadini, però si tengono le poltrone delle varie ACEA, A2A e compagnia, che è uno scandalo mostruoso. Quelle aziende sono molte centinaia e spero che Renzi qualche cosa faccia anche lì. Queste secondo me sono le due cose più importanti per aumentare la fiducia sul mercato italiano. Grazie a Giovanni Tamburi, amministratore delegato e presidente del Tamburi Investment Partners e a questo punto da oggi anche azionista di riferimento della Italy di Oscar Farinetti, appunto, di cui lei ha comprato il 20% pagandolo 120 milioni di euro. Giustamente alcuni dicono, quindi vuol dire che Italy vale circa 600 milioni di euro. Beh, ai prezzi a cui le ha comprate Tamburi oggi, sì. Poi bisogna vedere se uno riesce a ottenere quei prezzi lì, perché comprare il 20% non è comprare come lo 0,2. Ma teoricamente si può dire che lui ha valutato che intera Italy valesse 600 milioni di euro, tant'è che per comprare il 20% ne ha messi 120. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera Guido. Ci sente Gentili? Sì, io eccoci. Sento. Allora, come vedi, anche chi fa diciamo investimenti in grandi società e tra l'altro qui c'è un fil rouge un po' strano, perché Oscar Farinetti è un renziano della prima ora, ce l'ho detto molte volte, però si attende molto dalle prime mosse di Renzi. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Berisoni. Scrive un ascoltatore: e i piccoli imprenditori lasciamoli sempre soli. No, guardi, adesso, per carità, sbagliamo anche noi, ma penso che questo programma da sempre abbia avuto un'attenzione particolare, molto più per i piccoli imprenditori che per i grandi imprenditori, diciamo per i grandi nomi, per cui su questo obiettivamente la critica gliela respingo. Poi potevamo fare di più anche noi, abbiamo fatto iniziative anche sul tema della disperazione che porta al suicidio, insomma su questo guardi che la piccola impresa, essendo il 94% o il 97% a seconda che si guardi se sono più di 50 o più di 25 dipendenti, e il 94-97% delle intere imprese italiane è fondamentale per la ripartenza del paese, così come il Sud. Ecco perché partiamo con questo viaggio verso e per il Sud. È fondamentale che riparta anche metà di questa economia, non si può immaginare che riparta solo il centro-nord, se no da questo pantano non usciamo. Sentiamo le intenzioni di Matteo Renzi, un breve collage di dichiarazioni dell'intervista che gli ha fatto ieri Fabio Fazio e la reazione anche dei sindacati. Mettiamo 10 miliardi di euro in tre anni per rimettere a posto le scuole. Ho chiesto una mano a Renzo Piano, lo vediamo giovedì, perché in questo progetto di rammendo, come lo chiama lui, delle scuole, ci sia un suo contributo. Il 3% è una norma che è concettualmente antiquata ormai, ma che noi abbiamo preso l'impegno di rispettare e rispetteremo finché non sarà cambiata. Cioè, noi non cambieremo le regole in modo unilaterale. Mercoledì abbassiamo, diamo, come dire, ufficialmente inizio al percorso di riforme, che riguarda un sacco di cose, ma con l'impegno ad abbassare 10 miliardi le tasse. Il pacchetto di misure lo presentiamo mercoledì e, come dire, con le entrate e le uscite, con i le fonti, sì, di approvvigionamento e il modo con il quale li spendiamo. Trovo abbastanza imbarazzante che per anni si sono aumentate le tasse. Ora che le stiamo dividendo ci sono le polemiche, subito dice: ah, non inizierai mica a abbassarle a quegli altri e non a me. Ha detto dividendo anziché diminuendo. Diminuendo. Quindi vuol dire che fa 5 miliardi e 5 miliardi? No, non credo. Non credo, perché non ha funzionato l'altra volta. Appunto. Perché lei si ricorda che Prodi fece una riduzione teoricamente molto importante e che poi alla fine nessuno se ne accorse. Mercoledì abbassiamo, diamo, come dire, ufficialmente inizio al percorso di riforme, che riguarda un sacco di cose, ma con l'impegno ad abbassare 10 miliardi le tasse. Noi diciamo il sussidio universale di disoccupazione, che vuol dire che se io perdo il posto di lavoro, per i primi due anni ho diritto ad avere dei soldi che vanno via via scemando, sono sempre meno, sì, però devo prendere un impegno con la comunità, che qual è? Che è quello di frequentare un corso di formazione serio, non un corso di formazione fatto dagli amici degli amici, del sindacato, dell'associazione di categoria, che fa il corso di formazione per finta e che poi in realtà serve, diciamo, per il formatore e non per quello. Quindi che ha preso il posto di lavoro. Il superamento della, allora, cassa integrazione. Non di tutta, di parte della cassa integrazione sì, e soprattutto un altro impegno, su questo ha molto ragione Giuliano Poletti, il nuovo ministro del lavoro, dice: io ti do un contributo, hai perso il lavoro, ma tu non mi rimani a casa o stai al bar, tu mi dai una mano al comune, alla biblioteca, avremo i sindacati contro, ce ne faremo una ragione. Ecco Guido, e su quest'ultima frase che poi, insomma, da Camusso oggi, segretario della CGIL, ha detto parlando a Bari: Renzi mi è parso disattento al fatto che c'è una parte del paese che ha già pagato un prezzo altissimo durante questa crisi e che non può pagare ancora, senza risorse non si risponde al mondo del lavoro. E poi oggi ospite a Effetto Giorno qui a Radio 24 con Simone Spezia, Raffaele Bonanni, ha detto: Renzi farebbe bene ad avere un profilo più cauto, un premier dovrebbe provocare la coesione, non la divisione del paese, così il segretario generale della CISL, appunto. E Landini, che Renzi ieri ha elogiato, ha detto: bene se riduce l'IRPEF sui redditi bassi, ma pensi a quello che c'è da fare, non alle dinamiche interne alla CGIL. Allora, dimmi intanto una prima cosa: secondo te era un mettere le mani avanti su mercoledì? Perché insomma qui la partita è: tagli l'IRPEF o tagli l'IRAP, no? E soprattutto da un punto di vista del guadagno politico, può essere che andare contro i sindacati in questo momento, non dico contro, ma dire vi ascoltiamo ma poi facciamo noi, cioè non siamo schiavi dei sindacati, abbia un suo ritorno politico in termini di consenso? Ma dunque, allora, la partita è effettivamente IRPEF o IRAP, speriamo solo che non finisca con una solita... per accontentare un po' tutti alla fine, perché le pressioni saranno fortissime, con una soluzione salomonica o con una ripartizione che poi ci ritroviamo nelle stesse condizioni sostanziali in cui si ritrovò poi Prodi quando fece questa manovra nel 2007. Detto questo, per quanto riguarda i sindacati, a rompere il tavolo, diciamo, della concertazione così come l'abbiamo conosciuto per tanti anni, che diciamo, ha avuto dei risultati positivi in certe fasi, per esempio nella, quando si fece l'accordo sulla politica dei redditi del 1993 al tempo del governo Ciampi, ma fasi negative quando per lunghi anni praticamente la concertazione ha significato non fare assolutamente nulla. Io credo che da questo punto di vista ci ha provato anche Mario Monti e ci è riuscito solo in parte, diciamo, a rendere più dinamico questo confronto. Renzi dal primo momento è entrato, diciamo, a gamba tesa su questo tema e lo ha fatto anche politicamente in modo significativo, diciamo, collegandosi direttamente a un confronto con addirittura col leader della FIOM Landini e polemizzando invece con la CGIL con la Camusso. E quindi, diciamo, questo, diciamo, credo che sia una mossa che risponde anche, diciamo, a una necessità politica per Renzi, nel senso che lui, diciamo, tiene aperto contemporaneamente il dialogo da un lato con, diciamo, la sinistra del sindacato e quindi tiene aperto un confronto a sinistra molto intenso e dall'altro cerca invece di battere quella che è, diciamo, non è la sinistra estrema di Landini ma è la sinistra della CGIL che è molto conservatrice come è noto e quindi, diciamo, cerca di fare questa operazione un po' acrobatica ma comunque, insomma, diciamo, di un certo interesse dal punto di vista politico. Ecco, per concludere su questo, Guido, non potrebbe anche essere che Renzi, che punta anche all'elettorato di centro e sì, centrodestra moderato, punti anche a conquistare ancora più spazio lì, andando, diciamo, non dico in polemica, ma dicendo alla CGIL, ti ascoltiamo, però poi decidiamo noi, non puoi bloccare il paese? Certamente è così, nel senso che con, diciamo, la rottura del vecchio modulo della concertazione autobloccante cerca di recuperare anche consensi nel centrodestra. Ci aveva provato del resto anche Berlusconi, no? A volte su questo terreno, non riuscendosi e rapidamente ripiegando su posizioni di concertazione come l'avevamo conosciuta anche prima. Quindi credo che su questo terreno lui possa, diciamo, appunto, scommettere una partita politica. Ecco, poi noi chiaramente tireremo ospite mercoledì, perché mercoledì potremo valutare esattamente la portata di queste misure finora, giustamente, anche solo annunciate. In chiusura, in 10 secondi, c'è già però una novità in questo dar le date degli appuntamenti, secondo te? Nel metodo? Ma, insomma, io francamente non mi sembra una grande novità. Il metodo sarebbe stato invece più importante invece di fare il balletto delle solite interviste con chi vorrebbe abbassare l'IRPEF e chi l'IRAP, stare zitti e presentare un provvedimento, lavorare e presentare un provvedimento con delle coperture certe, mentre invece su questi temi siamo ancora in alto mare. Sulle coperture, ma sono un dettaglio le coperture. Grazie Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, che avremo ospite mercoledì appunto per commentare i provvedimenti del governo. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto. Focus Economia torna domani alle 17, intanto l'augurio di una buona serata.